E bentornati anche per questo sabato sera sulle frequenze di Radio Wombat con Tonight Alive. Anche stasera, cioè se avete seguito la scorsa puntata, anche per stasera la sigla è rimasta la stessa, anche se in versione da 12 pollici stasera e non nella versione da singolo come la settimana scorsa, perché appunto continueremo nell'esplorazione della discografia di questa etichetta storica per la città di Filadelfia e per l'intero suono black tutto di quegli anni. Ricordo che è stata fondata appunto nel 1971 da quelle due geniali menti di Leon Huff e di Kenny Gamble, che sono un po' i deus ex machina della Philadelphia International Records, autori di quasi tutte le canzoni della loro etichetta. E appunto questa sigla è un po' la sigla del suono di Filadelfia tutto, un grandissimo successo, appunto The Sound of Philadelphia, della house band di casa Philadelphia International, ovvero gli MFSB, ovvero i Mother, Father, Sister and Brothers. Successo incredibile che è andato appunto al numero uno delle classifiche del tempo in America, è diventato la sigla di uno dei programmi cardine della cultura afroamericana di quegli anni, ovvero il programma Soul Train, che mandava tutta musica black, funky, soul, rhythm and blues. E appunto questo Sound of Philadelphia era la sua sigla, giusto per appunto focalizzare l'importanza che ha avuto per una città intera e per un intero suono questa etichetta. Appunto mi dicevano, ma hai già mandato tutti i grandi successi, settimana scorsa non ti è rimasto quasi niente da far sentire. Ma a parte di successi ce ne sarebbe ancora a bizzeffe, però stasera esploreremo il lato più groovy, il lato più funky dell'etichetta di Filadelfia, e ripartiremo da un gruppo, da uno dei maggiori gruppi di maggiore successo dell'etichetta, ovvero gli OJs, dove abbiamo già fatto sentire la volta scorsa i loro due più grandi successi, ovvero Love Train e Backstabbers. Ma adesso ci andremo a sentire, appunto essendo il fine settimana e per augurarvi un buon fine settimana a tutti, ci riascolteremo gli OJs con Living for the Weekend. Tonight Alive, Radio Wombat. Let me just sit down and relax a minute. Let me tell you about it. It's Friday. Thank God it's Friday. And I just got paid. Going across town. Gonna pick up my lady. Ain't no telling where I might end up. You might see me on the east side, the west side. I'm even going across the bridge, oh, cause I hear they really get down over there. Yeah. questa appunto era Living for the Weekend degli OJs, grande successo ovviamente firmato Gamble and Huff, questa, uscito nel 1975, è stato uno dei tanti grandissimi successi degli OJs nella sua versione, come si direbbe oggi, radio edit, nella short version del singolo. Era arrivato anche numero uno nella classifica americana dei singoli rhythm and blues, ma ci siamo andati a sentire la versione extended da 12 pollici, uscita poco dopo e poi finita anche questa versione appunto estesa, finita anche nell'album degli OJ's Family Reunion, appunto proprio in quegli anni stavano prendendo sempre più piede appunto le versioni estese dei singoli, le versioni in 12 pollici, e questa appunto è una versione da quasi 6 minuti e mezzo. E appunto perché venivano molto usate dai DJ nelle discoteche, quindi tendevano a strecciarle, a farle diventare sempre più lunghe. Infatti la differenza tra i singoli di successo del rhythm and blues degli anni 60 e quelli appunto degli anni 70 è che con queste versioni molto più allungate i pezzi sono più che raddoppiati, e a me piacciono, forse mi piace più la versione estesa, poi dipende, vabbè, da cosa stiamo andando a sentire. E adesso andiamoci a sentire appunto un altro grande della Philadelphia International, Jerry Butler, con la sua versione in 12 pollici di I'm Just Thinking About Cooling Out, Philadelphia International Records, Radio Wombat, Tonight Alive. Cooling out, cooling out, cooling out, cooling out. Questo era Jerry Butler con la sua I'm just thinking about cooling out nella versione estesa da 12 pollici, però mi ero dimenticato, fatemi fare un saluto di pronta guarigione a Ginox che non è potuto essere qui con noi stasera. Un saluto Ginox, rimettiti, ci vediamo presto. E visto che ci siamo, allora se mi viene in mente Ginox dirò i nostri contatti, che ancora oggi stasera non li ho detti. Il sito, come sempre, spero ve lo ricordiate, è rimasto sempre lo stesso, non vi preoccupate, sempre wombat.noblogs.org, la nostra frequenza in AM per la zona fiorentina è sempre 1359 in modulazione di ampiezza, e la nostra mail è sempre postawombat@insiberia.net e i nostri canali social twitter.com/radiowombatfi e la pagina Facebook di Radio Wombat, facebook.com/radiowombatfirenze. E quello che ci siamo andati ad ascoltare un attimo fa era appunto Jerry Butler. Jerry Butler proveniva niente po' di meno che dagli Impressions di Curtis Mayfield, che aveva conosciuto nel 1957, e appunto hanno cantato per un bel po' di anni insieme negli Impressions, quindi direi un grandissimo pedigree per Jerry Butler. Poi questo, poi appunto quando si sciolsero gli Impressions per via dell'inizio della grande carriera solista del mai troppo celebrato Curtis Mayfield, Jerry Butler passò alla Philadelphia International Records, collezionando anche dei discreti successi, e questo era un suo singolo del 1978. Adesso andiamoci ad ascoltare un altro dei tanti pezzi nell'infinito catalogo della quasi cinquantennale storia della Philadelphia International, e andiamoci ad ascoltare e Kaleidoscope con I'm a Changed Person. Tonight Alive, Radio Wombat. Questi erano i Kaleidoscope, un gruppo misto di cinque cantanti, con appunto questo proprio tipico falsetto, cantato in falsetto in primo piano. Il leader era appunto un falsetto, e direi che rende abbastanza originale lo stile vocale dei Kaleidoscope, che hanno pubblicato nel 75 un paio di singoli per la Philadelphia International. Questo era appunto uno dei due, perché poi se no hanno pubblicato molte altre cose, ma su altre etichette. Però in quel 1975 la Philadelphia International stava cercando nuovi talenti, nuovi gruppi da mettere sotto contratto, e questi Kaleidoscope sono stati un po' una meteora all'interno dell'etichetta. Ma questa I'm a Changed Person è davvero niente male, molto, molto originale, direi, e comunque molto groovy, anche se nel senso più soul del termine. E adesso andiamoci ad ascoltare un pezzo di qualche anno più tardi, del 1978, con i The Futures, con Party Time Man. La temperatura inizia a salire. Oh, avevo detto la temperatura stava iniziando a salire, il groove inizia a montare in questa puntata della Philadelphia International. E questi erano i The Futures con Party Time Man, pezzo appunto del 1978. I The Futures erano proprio una band proprio di Philadelphia, nati e cresciuti a Philadelphia, ed erano James King, Frank Washington, Kenny Crew e Harry Gilberry. E hanno pubblicato un paio di album per la Philadelphia International, appunto per la etichetta cittadina, per poi pellegrinare un po' a giro negli anni 70, passando per la Amio, per la Buddha, per poi tornare a casa appunto in quel 1978 alla Philadelphia International Records, etichetta di Philadelphia, per un gruppo di Philadelphia. E visto che la temperatura sale, l'acqua inizia a bollire, allora prossimo pezzo, un altro gruppone dell'etichetta di Philadelphia, e sto parlando di Archie Bell and the Drells, altro gruppone insieme agli OJs e a Harold Melvin and the Blue Notes, gruppo che ha avuto tantissimo successo, e questo è un pezzo veramente funky del 1975 con la loro Let's Groove. Già il titolo dice tutto. Philadelphia International, Tonight Alive, Radio Wombat. We are here to let you know that we ain't got no time to lose. So I want everybody to get up and boogie into a brand new groove. Come on. Let's groove. Everybody groove. Let's groove. Everybody groove. Let's groove. Everybody groove. Let's groove.

che pezzo esagerato, veramente Let's Groove, questo basso rotolante incredibile in questa versione da 10 minuti di Let's Groove di Archibald and the Drells, 1975. Io ho già iniziato a ballare qui nella regia del Wombat, meno male non ci sono quelle minchiate tipo webcam che qualche conduttore di famose radio fiorentine tiene accese come un quindicenne. Meno male non facciamo parte di questa risma. Questo appunto era già un pezzo che faceva definitivamente esplodere la temperatura in questo grande catalogo di questa storica etichetta di Filadelfia. E a questo punto non si può tornare indietro. Prossimo pezzo, altro pezzo leggendario, storico, per chiunque abbia mai sentito un DJ set disco delle parti di New York di quegli anni. Questo è un pezzo del 1975 dei People's Choice e questa è Do It Any Way You Wanna, Tonight Alive, Philadelphia International. Della Madonna, veramente, anche questo, cioè, un grandissimo classico dell'epoca disco, un pezzo, questo Do It Any Way You Wanna di Leon Huff e i People's Choice, erano appunto uno dei gruppi della casa della Philadelphia International, e si formarono nel 1965 appunto a Philadelphia. Il leader era l'organista Frank Bronson, gli altri membri Dave Thompson alla batteria, Valerie Brown, Mark Reed alle voci, Darnell Jordan e Johnny Hightower alle chitarre, Clifton Gamble alle tastiere, Bill Rogers sempre alle tastiere e Stanley Thomas al basso. E questo è uno dei tanti successi che poi i People's Choice hanno collezionato sulla Philadelphia International, come anche il loro I Like to Do It. E collaborarono molto, soprattutto con Leon Huff, che si innamorò di loro dopo averli sentiti una sera in concerto a Philadelphia e decise subito di metterli sotto contratto per la sua etichetta. E adesso un altro pezzo sempre di casa Philadelphia International, su questo special estivo appunto tutto dedicato all'etichetta di Philadelphia, un gruppo un po', anzi, eretico, ma possiamo dire più che altro originale per il classico suono dell'etichetta. Qui siamo quasi in territori quasi prog, si potrebbe dire. Questo è del 1973, Yellow Sunshine, con il pezzo omonimo, Yellow Sunshine, sempre Philadelphia International, Tonight Alive, Radio Wombat. Funky Prog. Oh, questi appunto erano gli Yellow Sunshine, veramente uno, il versante si potrebbe dire più funky rock dell'etichetta di Philadelphia, insieme appunto ai People's Choice di prima, si può dire uno dei vertici funky dell'etichetta, del suono di Philadelphia. E questi Yellow Sunshine erano appunto un gruppo anche loro proprio di Philadelphia, con i due fratelli Chambers alla chitarra e alla batteria, Lester Young alle percussioni, non il leggendario Prez sassofonista, che a quel tempo ormai ci aveva già lasciato da un bel pezzo, ma questo è un omonimo che suona le percussioni, con Idris Young al basso, Dexter Wansel al piano e Ron Harding al sassofono. Carly Rowland ebbero sicuramente maggior successo, infatti facevano parte dei MFSB, appunto la house band di casa Philadelphia International, e gli Yellow Sunshine si divisero dopo che appunto Kenny Gamble riconobbe il potenziale del tastierista Dexter Wansel e lo fece esordire come solista, scrivendo per lui le canzoni. Quindi una vita abbastanza breve per questi Yellow Sunshine, anche se avevano un suono veramente veramente particolare, devo dire, un suono che mi piace molto. E il prossimo pezzo è, vabbè, sì, ciao, addio, qui proprio salta tutto, e andiamo a sentire un grandissimo collaboratore di Leon and Huff, Bunny Sigler. È stato appunto coautore, produttore di tutto e di più, insieme appunto a Gamble and Huff, quindi possiamo dire nell'amministrazione tra virgolette, ma ha avuto anche una grande carriera, cioè una discreta carriera, via, come solista. E questo è uno dei, direi, suoi pezzi più famosi in ambito disco, e anche se non è stato pubblicato per Philadelphia International, infatti questa è l'unica eccezione, l'unico strappo alla regola che sapete che dovevo fare, ma è l'unico di stasera. Infatti questo fa parte di uno dei lavori pubblicati poi su un'altra etichetta, perché ovviamente appunto collaborando tantissimo con Gamble and Huff nella Philadelphia International, voleva avere anche un po' di respiro per sé da altre parti, e questo è uno dei suoi lavori appunto fuori dalla Philadelphia International. By the Way You Dance, un pezzo famosissimo, veramente un culto delle disco newyorkesi degli anni 70, probabilmente la riconoscerete, ma per non fare uno sgarro alla Philadelphia International, in questo caso ci andremo a sentire il Larry Levan mix di questo pezzo, lo dovete sapere, dovete scontare questa cosa con me, perché Larry Levan era stato fatto nella precedente gestione e versione di Tonight Alive, questa cosa qua mi dispiace tantissimo, magari lo rifarò, e ogni volta che avrò l'occasione vi metterò un pezzo di Larry Levan, sappiatelo, perché è veramente uno dei miei numi tutelari, e quindi, come si dice qua da noi, ve lo dovrete puppare. Però quanto piace a me, spero che piaccia anche a voi. E questa appunto è Bunny Sigler con By the Way You Dance nel Larry Levan Mix, Tonight Alive, Philadelphia International. Larry Levan dal Paradise Garage. Thank you. Questa appunto era By the Way You Dance di Bunny Sigler nel Larry Levan Mix, veramente un pezzo incredibile. Sappiate che avete rischiato di perdere un conduttore perché ero qui a ballare come un babbuino da solo. Speriamo non mi abbia visto nessuno, perché se no tra un po' arriveranno gli omini in camice bianco che mi porteranno via dentro una camicia dalle maniche molto lunghe. Comunque andiamo avanti, questo pezzo veramente incredibile, un doveroso omaggio a Bunny Sigler. E anche il prossimo pezzo è secondo me uno degli apici dell'etichetta di Philadelphia, appunto il citato prima nella Yellow Sunshine Band, Dexter Wansel. Questo è uno dei suoi lavori solisti, Life on Mars del 1976, e questo è uno dei lati più jazz forse dell'etichetta di Philadelphia. E questo pezzo in particolare forse il jazz funk definitivo, se non proprio in senso generale di genere, ma per l'etichetta sicuramente un suono particolarissimo. Infatti Dexter ha usato in questo pezzo lo stesso sintetizzatore che stava usando Stevie Wonder proprio a quel tempo nelle sue registrazioni. E grandissimo virtuoso dello strumento Dexter Wansel, poi è entrato anche lui appunto diciamo nell'amministrazione della Philadelphia International. Huff & Gamble riconobbero subito il suo talento e, oltre a pubblicargli i dischi, poi lo fecero lavorare sia come arrangiatore, come compositore di musiche, produttore. È stato addirittura anche art and roadie della Philadelphia International, Bunny Sigler. Bunny Sigler, Dexter Wansel. Quindi da semplice tastierista poi ha scalato la grande scala di Filadelfia fino ad arrivare ai posti che contano, e questa appunto è la sua Life on Mars, jazz funk dalla Philadelphia International, sempre su Radio Wombat, Tonight Alive. Thank you. E questo appunto era Dexter Wenzel con Life on Mars, un pezzone veramente incredibile con questo groove che vorresti non finisse mai, potrebbe andare avanti delle ore, veramente bellissimo, bellissimo, almeno a me piace da impazzire. E siamo arrivati dunque all'ultimo pezzo di stasera per questo lato ultra funky della, uno dei lati ultra funky della etichetta di Philadelphia, che potrebbe si potrebbe andare avanti in chissà quante altre puntate esplorando i vari lati delle varie sfaccettature di questa etichetta che ha pubblicato così tanto, è stata così importante per tantissimi generi di musica black. Però andiamo ad un'altra eccezione con questi Frantic, con Strut Your Funky Stuff. Frantic erano un gruppo di tre ragazze, Trisha Cheyenne, Florence Raynor e Dennis Russell, che vennero consigliate a Kenny Gamble da Tom Bell, che le vide e le sentì in Francia. Infatti il pezzo inizialmente fu pubblicato in Francia dall'autore americano Jack Robinson e dal produttore francese David Christie, e non avevano inizialmente nessuna connessione appunto con Philadelphia, fin quando non furono segnalate a Gamble & Huff, che le misero appunto sotto contratto per pubblicarle sul mercato degli USA, e fu ovviamente un grandissimo successo questa Strutting Your Funky Stuff, come poi ne seguirono anche altri, ma appunto di questo gruppo di produttori possiamo sicuramente ricordare I Love to Love, un successo da 40 milioni di copie scritto per Tina Charles, oppure anche un altro hit multimilionario come Saddle Up, che vendette, prodotto da Robinson e Christie, milioni di copie tra l'Inghilterra e il resto d'Europa. Questo è un pezzone della Madonna, poi finito nella DJ booth di tantissimi DJ del tempo. Questo appunto è Strut Your Funky Stuff dei Frantic, 1979, Philadelphia International, su Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. questi appunto erano Frantic con Stratio Funky Stuff del 1979, un pezzone anche questo incredibile, non mi era venuto, forse non potevo trovare pezzo migliore per chiudere questa doppietta sulla Philadelphia International in questo speciale estivo di Radio Wombat, prima di salutarvi per le vacanze, per la pausa estiva, prima che ci ritrovano sciolti qua dentro la regia del Wombat. Anche Tonight Alive appunto si prenderà una pausa e ritornerà a settembre più in forma che mai, con un sacco di gruppi già messi sul taccuino per la prossima stagione, sempre qui su Radio Wombat, perlomeno che non mi vogliate fare fuori prima per evitarvi un altro intero anno a sopportarvi, anzi a sopportarmi, scusa, io non vi sopporto mai, io sempre un assoluto piacere. Sto insieme a voi, anzi sono qua e vorrei far andare avanti questa serata ancora per non si sa quanto, con appunto questa musica della Philadelphia International. E i momenti dei saluti sono sempre molto imbarazzanti e un po' tristi, e quindi qua il vostro Dalai Lama vi dà un augurio per un ottimo agosto, ci rivediamo più in forma che mai e speriamo pieni di energie dopo il riposo estivo, e ci continueremo a sentire qua sempre sulle frequenze di Radio Wombat. Un bacio e un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ci risentiamo presto. Buona estate a tutti da Tonight Alive. A prestissimo.